che le ricchezze sono anche altre. Eh sì, io penso profondamente che noi siamo sempre noi esseri umani, siamo fantastici perché con questa razionalità, questa mente che riesce a fare cose incredibili, a creare, a trasformare, però noi abbiamo anche tutta un'altra parte che funziona, che è la parte dell'istinto, che è la parte della sensibilità, e se vuoi la possiamo chiamare anima, la parte quella con la voce profonda che ti dice dove devi andare quando devi fare una scelta. Poi uno la ignora perché non siamo abituati a usarla. Anche nelle cose matematiche c'è tantissima parte di istinto, di creatività, e quella parte lì è un po' atrofizzata, non è allenata, non va in palestra, non fa niente, sta lì buttata da qualche parte, forse è ora di usarla un pochino, anche da proprio da associare nelle cose dove meno ti aspetti che ti serva quella parte lì. Parlano di te che non hai re. Si sente tanto che sei una persona che cerca. Io ti attribuisco tutte le canzoni, anche se le hai scritte quasi tutte, però sono sicura che anche quelle che non hai scritto tu sono... Esatto, sono scelte, ecco, proprio con l'anima, ecco, e quindi le attribuisco a te. Confido nell'eternità, in Per non pensarti. Mi sembra che ci sia una tua ricerca nel capire qualcosa di più della nostra vita, sì. Forse perché a un certo punto... proprio esistenzialmente si comincia a fare i conti con tante cose. Sì, cadono. Poi la vita ti porta, se decidi di sopravvivere a certe cose che ti sembrano insopportabili, devi proprio trovare il dovere e trovare delle, più che delle risposte, delle vie alternative, usare delle risorse che magari non credevi neanche di avere, e allargare un po' lo sguardo e vedere che non è possibile che è tutto qui. E quindi ci sarà magari la possibilità che questo sia un viaggio da compiere per trasformarsi, imparare, capire delle cose e poi portarle altrove. E io veramente confido nell'eternità, se no è una gran fregatura, eh? E non ci sto. Dall'eternità, dalle stelle a qualcosa di più vicino. Baby, I'm the queen of the night. Ma se ti senti ogni tanto un po' queen of the night? Perché io nelle intenzioni sempre queen of the night, poi verso le 9 mi viene voglia di divano. Tu? Allora, io vengo da un passato di, diciamo, io di sera, di notte mi attivo. Do il meglio di me. È la mattina che sono una schifezza, però da quando c'ho un figlio che va a scuola, io le notti ormai me le devo proprio autocensurare, quindi dovevo dire che ero un tempo la regina della notte, adesso mi piacerebbe, lo sono nella sostanza, ma poi in realtà sono uno straccetto la mattina, ecco, questo è il risultato. Visto che hai citato tuo figlio, ho appena letto i ringraziamenti perché ho appena messo le mani sul prodotto fisico. A te Manuel, grazie. Giustamente, a nostro figlio Samuel, perché se magari un giorno gli capiterà questo disco tra le mani, sappia, se già non lo saprà, che è un enorme privilegio vederlo crescere così stupendo com'è. Cioè, è il valore del lavoro, il valore dell'arte. Che cosa vuoi insegnargli con questo ringraziamento? Il valore del lavoro, sì, perché lui poi mi vede, noi stiamo tanto insieme, perché facendo questo lavoro ho la fortuna di avere dei grandi periodi in cui siamo a contatto, poi quelli in cui invece ci separiamo, che io parto, che adesso insomma lui è grande, capisce molte più cose, le elabora in un altro modo, ci manchiamo quando siamo a distanza, e quindi dare un po' anche il significato a questa mamma che ogni tanto prende e va, cioè fargli capire che comunque lui è sempre... è il primo pensiero sempre ed è il centro ormai di tutto, perché noi siamo due genitori in balia di un 6enne che decide tutto lui, fa tutto lui. E poi la faccenda della maternità, insomma, mi rendo conto, io l'ho aspettato tanto e soffrivo molto quando non c'era, ma poi non tutti devono necessariamente

dimmi che siamo io e lei. Imitavamo Dylan Dog o parlavamo di Marx e de Gel. Le tue canzoni spesso fanno parte dei nostri ricordi, fanno parte della nostra vita e fanno parte anche delle nostre vite familiari. Io ti posso dire che uno dei ricordi più belli che ho di mia mamma, che è mancata molti anni fa, era che da piccola mi cantava Samarcanda. Quindi per me, mia madre è sempre legata a questa canzone. Che impressione ti fa il fatto che tante tue canzoni facciano parte non solo dell'immaginario, della cultura italiana, ma anche delle vite di tante persone? Penso che sia una cosa bellissima che si trasmetta passione, amore o anche semplicemente tenerezza con un canto, con una canzone. E in questo sono assolutamente popolare, cioè è inutile trasmettere canzoni cerebrali e cerebrotiche, bisogna comunicare ai bambini e ai ragazzi canzoni che abbiano dentro qualche cosa di buono, di bello, che imparino, ma che siano anche orecchiabili, che vadano per la loro, che i bambini possano ripetere, perché come ben sai, ma questo è un vecchio discorso strutturalista, un canto ti ricorda, passa da un'altra parte e ti ricorda una stanza, ti ricorda un abbraccio, ti ricorda un giorno che è nato il sole, ti ricorda un giocattolo, si accoppia alle cose più belle che hai avuto da bambino nella vita. E questo soprattutto per i bambini, perché i bambini hanno una memoria spaventosa, lo sai benissimo che una favola devi raccontarla sempre uguale a un bambino, perché se cambi qualcosa si arrabbiano, la vogliono come era stata detta il giorno prima. E lo stesso è per le canzoni. La canzone è quel momento meraviglioso che ho passato, quel momento triste che ho passato. Se li ricorderanno tutta la vita le canzoni che hanno imparato da bambini. Grazie mille Roberto. Faccio proprio quella che dice ancora il titolo: La vita che si ama, il libro e il CD Canzoni per i figli, storie di felicità, ed è la riga che mi piace di più, storie di felicità. Sì, perché sono tutte storie di felicità. Sono storie di felicità. Perché dovete pensare, dobbiamo pensarci tutti alla felicità. E non spaventatevi del dolore o del male, dice ah però io non sono felice. Non è vero, la felicità è sempre lì. Io non accetto, come dice il libro, una felicità che sia sdraiarsi e non fare niente. La felicità la voglio addosso come una febbre, deve darmi sempre uno stimolo, deve darmi sempre qualche cosa che non è finita, che devo finire io. È dinamica la felicità, non è statica mai, è bella per questo. Ed è tutto per il nostro appuntamento speciale con Voci in Scena. Ancora un saluto e un augurio di buone feste da Marta Cagnola.